Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Non sono mai argomenti leggerissimi o diciamo allegri quelli che trattiamo con l'Adico. Questa volta potremmo dire che c'è anche un risvolto funebre, una vicenda che è accaduta in questi giorni a Mestre e riguarda purtroppo la tomba di una signora defunta. Ben trovato al presidente dell'Adico Carlo Garofolini, ciao Carlo. Amico, un saluto a tutti gli ascoltatori. Cosa è successo? Questa tomba praticamente è stata demolita, cosa che magari succede periodicamente, ma qui davvero non c'erano i tempi. Sì, è una vicenda che, come anticipato pochi istanti fa, fortunatamente non capita tutti i giorni di trattare, ma certamente una vicenda che, diversamente da tante altre, ha dell'incredibile, perché come detto qua in questo oggi abbiamo una signora che si è trovata ad andare in cimitero per dover recuperare quelli che erano i beni di una sua amata nonna, di cui doveva recuperare fotografie, una statuetta eccetera, e al posto della tomba ha trovato un cumulo di macerie. È una cosa normale che il comune e le aziende che poi svolgono il servizio cimiteriale facciano gli spostamenti magari per lavori in corso, però chiaramente deve essere avvisata la famiglia. In questo caso manca proprio questo passaggio fondamentale. Sì, la signora aveva scoperto per caso che la Veritas, che era la società incaricata a dover demolire la tomba, il 28 settembre sarebbe proceduto con la demolizione. Lei qualche giorno prima della data si era recata per recuperare un po' tutti quelli che erano i suoi beni, che in qualche modo potessero ricordargli la defunta nonna, e come detto, rispetto alla data che era stata preventivata, la Veritas ha pensato di agire prima senza avvisare la signora, e la signora si è trovata con un cumulo di macerie al posto della tomba. Una situazione che ha spinto la signora comunque a fare denuncia ai carabinieri, ma poi anche rivolgersi all'Adico, perché a questo punto è determinata a voler essere risarcita anche per i danni morali che adesso si trova, insomma, a essere coinvolta. Allora, la prima cosa che domandiamo è che fine hanno fatto i resti che c'erano in questa tomba? Purtroppo, Mirko, qui il sistema prevede che dopo un tot di anni che il comune ti mette a disposizione una tomba, una locazione, scusa, per la sepoltura di un caro, dopo circa 30 anni che la persona si trova lì, che la salma si trova lì, tu debba provvedere quindi a manifestare chiaramente il desiderio di avere la crematura e quant'altro, per poter poi riprenderti in possesso di quello che sono un po' i resti della salma. E in questo caso certamente la signora si è trovata che tutto questo è già avvenuto, sicuramente le ceneri gli verranno restituite, ma tutto quello che è il rito e tutto quello che è la possibilità che la signora aveva di poter appunto conservare di quei che erano i beni, le statuette che aveva negli anni accumulato in questa sulla tomba, ecco. Sulla tomba certamente non è venuta più in possesso e difficilmente ne potrà anche venire in possesso successivamente. Danni morali e danni materiali, dunque si è rivolta anche a voi. Voi su cosa punterete per arrivare ad un risarcimento? Beh, la prassi dell'Adico è sempre quella di mettere in contatto gli interessati per giungere a una conclusione positiva che possa essere la più veloce e la più conveniente per tutti. Certamente in questo senso la persona oggi è determinata a voler chiedere un risarcimento per i danni, in particolar modo morali, perché veramente si è sentita in certo qual senso violata su quello che era anche una situazione, un rapporto che aveva con questa nonna, che ormai da tanti anni è abituata tutti i giorni, un po' tutti i giorni andare a trovare, e che trovandosi coinvolta certamente non è intenzionata a mettersela via così facilmente. Una somma che poi magari può essere un'occasione più che per arrivare a una cifra, ma a far sì che insomma anche la Veritas possa magari chiedere scusa alla signora e in questo senso magari trovare una soluzione che eviti a tutti trovarsi in una condizione, insomma, di forza nell'altro. Quindi non ti chiedo una quantificazione, perché chiaramente poi questo sarà oggetto della trattativa, appunto, tra la famiglia e Veritas, che vedrà voi appunto come tramite. Ovviamente sono casi difficilmente prevedibili, per fortuna questo è il primo che almeno mi è capitato di trattare in questa rubrica, ma quali prudenze, quali consigli possiamo dare in questi casi, soprattutto pensando che 30 anni, insomma, sono una generazione, una lunga generazione, magari qualcuno si dimentica, può essere magari che si dimentica o non sa di avere dei parenti o dei doveri anche nei confronti del comune, lì dove c'è il cimitero e le tombe dei propri cari. Bravo, Mirko ha inquadrato benissimo la questione e i consigli vengono più determinati da un buon senso che da un codice civile, perché quando capitano queste cose, io credo che la cosa più semplice sia da parte dell'ente avvisare la persona della esecuzione imminente o della scadenza della convenzione che questa persona ha con il comune, e diversamente fare in modo che la persona comunque, come hai detto te, cerchi un attimino di verificare quando scade questa convenzione, perché purtroppo noi abbiamo sempre la pessima abitudine di aspettare il giorno prima di una scadenza anche per pagare una semplice bolletta, con il rischio poi che un imprevisto faccia saltare tutto il sistema. Allora il consiglio veramente è quello di fare in modo tutti di verificare un po' le proprie carte a casa, nel dubbio fare una telefonata, ma poi non dimenticarsi che quando accadono queste cose non si può neanche aspettare l'ultimo giorno. E quindi consiglio di saggio buonsenso, effettivamente. Con questo noi ci diamo appuntamento tra due giorni, un altro argomento al centro dell'attenzione, parleremo di sanità, quindi preparatevi. Grazie al presidente dell'Adico Carlo Garofolini e buon proseguimento. Grazie a te Mirko, un saluto a tutti gli ascoltatori. Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Per riascoltare questo programma, vai su bluradioveneto.it.